come educare i figli e, opportuno ricordare le regole che usava Susanna Wesley, la mamma di Giovanni, Wesley, il padre del metodismo, per educare i figli. Questa mamma è stata veramente straordinaria. Era l'ultima di 24 figli e sapeva oltre l'inglese, il greco, il latino e il francese. Si sposò a 20 anni ed ebbe 19 figli in 21 anni. Era una donna spesso ammalata e doveva affrontare ripetutamente la prova e l'umiliazione, perché il marito andava in prigione per la sua fede. Queste regole hanno quindi un certo effetto perché provengono da chi ha saputo allevare dei figli, dei quali alcuni in seguito sono diventati famosi in tutto il mondo per la loro fede. 1. Non permettere spuntini fra un pasto e l'altro. 2. Metti i figli piccoli a letto prima delle 8 di sera. 3. Se devono prendere delle medicine, non permettere che facciano storie. 4. Soffoca l'egoismo e la testardaggine di tuo figlio e, in questo modo, collabora con Dio per la salvezza della sua anima. 5. Insegna a ogni figlio a pregare, non appena impara a parlare. 6. Esigi la calma e il rispetto da tutti durante il culto di famiglia. 7. Non dare mai ai figli quello che chiedono piagnucolando. Da loro solo quello che chiedono con gentilezza. 8. Per prevenire le bugie, non punire mai un ragazzo per qualcosa che ha già confessato e di cui si è pentito. 9. Punisci ogni mancanza. 10. Fai attenzione a non punire mai un bambino due volte per una singola mancanza. 11. Loda i tuoi figli e ricompensali per quello che fanno di buono. 12. Ogni loro tentativo di fare piacere a qualcuno, anche se eseguito imperfettamente, deve essere riconosciuto e lodato. 13. Difendi il diritto dei tuoi figli di possedere e usare ciò che appartiene loro anche nelle cose più piccole. 14. Mantieni fedelmente tutte le promesse. 15. Insegna ai tuoi figli a temere la verga, ovvero la punizione fisica. Non si pecca. Gli storici affermano che la cosa più importante nella sua casa era la preghiera. Si preoccupava dell'educazione religiosa dei suoi figli e, oltre al culto di famiglia, metteva a parte un'ora alla settimana per ciascun figlio. Il tempo dedicato ai nostri figli rimane per un padre o una madre l'investimento più importante della sua vita.